Euroreportage. Segnali di fumo. La svolta arriva da Bruxelles, di Angelo Miotto. Ciao, benvenuti su AZ. Almeno un giovane su cinque ha il vizio del fumo e quindi fuma tutti i giorni. Il fumo uccide un fumatore su due. Questi dati mettono in allarme l'Unione Europea, che vuole fare tutto il possibile per scoraggiarci dal fumare, anche prima che iniziamo. Guerra al tabacco! Questo è un materiale didattico che potete trovare sul sito del Parlamento Europeo. Si rivolge ai giovani perché dopo la direttiva antifumo di 12 anni fa, oggi l'attenzione delle politiche dell'Unione è diretta verso i giovani per stroncare l'iniziazione al fumo e scoraggiare l'acquisto delle sigarette. L'obiettivo è impedire alle multinazionali del tabacco di reclutare sempre più giovani leve, dopo il dato che indica che il 29% dei giovani europei fuma. It will strengthen the fight against tobacco consumption in the European Union. And also harmonizing the rules, not to fragment the internal market. Quella che sentite è la voce del commissario europeo Tonio Borg, responsabile per la salute. Sta dicendo che quello che si vuol fare nella lotta contro la fruizione di tabacco nei paesi dell'Unione viene declinato su due piani: il primo, quello di eliminare tutta la parte di attrazione, di seduzione che può avere il tabacco, grazie agli aromi, agli additivi; il secondo è quello di cercare di difendere soprattutto i più giovani, come detto, che devono trovarsi di fronte a un prodotto riconoscibile. Paola Testori Coggi è direttore generale del Direttorato Salute e Consumatori della Commissione Europea. Eccola ai nostri microfoni. La parte importante della nostra proposta è che noi vogliamo ridurre l'attrazione che le sigarette hanno sui giovani anche nel modo in cui sono presentate e con quegli aromi e quei gusti che hanno. Quindi noi abbiamo vietato l'aggiunta di tutti gli aromi, compreso il mentolo, quando questi non sono necessari per la fabbricazione. Ci sono alcuni aromi che vengono aggiunti perché sono tecnologicamente necessari, ma invece gli aromi che vengono aggiunti alle sigarette per dargli un gusto di fragola, di vaniglia, di cioccolato, sono questi gusti che attraggono molto i giovani, li abbiamo vietati. Cioè, la nostra proposta è stata ha avuto già un primo accordo a livello degli Stati membri il mese di giugno, e la cosa, diciamo, la grossa cosa che è cambiata, si passa dal 75% al 65% le fotografie e i messaggi negativi, e per il resto, diciamo, il Consiglio ha più o meno sostenuto la nostra proposta. Ora il Parlamento ha votato, anche il Parlamento ha dato la sua posizione in luglio e deve formalizzarla adesso, diciamo, a settembre. Quindi aspettiamo il voto formale del Parlamento e poi si entrerà nelle fasi finali del negoziato. Il numero delle morti per cause attribuibili a prodotti legati al tabacco è ancora elevatissimo, 700.000 persone all'anno in Europa. Una cifra che impone un'azione a livello comunitario, anche perché nelle statistiche mondiali il vecchio continente è quello dove si fuma ancora di più rispetto agli Stati Uniti o l'Australia. Roberto Boffi, primario in pneumologia all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Abolire ad esempio i pacchetti da 10 sigarette, sti maledetti pacchetti da 10 sigarette, per uno che non ha tanti soldi in tasca, magari sceglie tra il pacchetto di sigarette e la ricarica del cellulare e rinuncia al fumo. Divieto di impiego di additivi nel trattamento del tabacco, un'altra enorme truffa, no? Dall'ammoniaca al mentolo alle sigarette fruttate, no? Le avvertenze con immagini sul pacchetto, questo è una cosa in cui io ho sempre, non dico diffidato, ma non me ne sono occupato direttamente in questi anni. Ho sempre pensato che più che il terrorismo, lavorando poi all'Istituto dei Tumori, non fosse quella la strada giusta per gli adulti, ma forse neanche per i ragazzi. Però studi importanti degli ultimi anni hanno dimostrato che in Australia, però, insomma, questo ha avuto un impatto statisticamente significativo sul fumo. Per cui, perché no? Il divieto di promozione gratuita delle sigarette, insomma, le sigarette che vengono, i pacchetti pieni in cambio di pacchetti vuoti. Quali sono stati i principali ostacoli per arrivare quasi addirittura di arrivo con il voto a settembre? L'abbiamo chiesto a Paolo Bartolozzi, europarlamentare del Partito Popolare Europeo, che siede nella Commissione Sanità e Ambiente. Il suo è un parere critico sulle norme che saranno proposte al voto. Sentiamo perché. Io credo che questa direttiva risponde un po' a delle logiche demagogiche e di tendenza, ma non incide poi, secondo me, effettivamente sullo scopo che doveva essere quello di una maggiore informazione degli utenti del rischio del tabagismo. E questo secondo me si sarebbe potuto fare molto più con, diciamo, con un'adeguata politica di informazione nelle scuole, sulle donne, attraverso anche uno sforzo che poteva essere richiesto alle aziende produttrici di sigarette. Intanto ci sono alcune questioni giuridiche da risolvere, perché per esempio io credo che la direttiva così come esce è in contrasto fortemente con le regole del mercato unico, e questo già la commissione giuridica l'aveva fatto notare, e molti pareri della commissione giuridica non sono stati tenuti conto. Siamo a Milano, in via Principe Eugenio, immersi nel profumo del tabacco da pipa che pervade una tabaccheria. Il signor Sevieri Walter. Questo nugolo di pacchetti che vedo qui di fronte a me è il fatto di aumentare la superficie delle immagini con le cosiddette shock. Lei cosa ne pensa? Penso che forse è più suggestivo il fatto di vedere un'immagine che non il fumo uccide in scritta, perché poi si dimentica, l'immagine è più scioccante. L'altro aspetto è che non so come potrà recepirlo il fumatore. Un po' come il prezzo. Quando arriva a 4 euro smetto, quando arriva a 5 euro smetto, e continuano invece ad andare avanti, quindi non so. Altro punto sono le sigarette pacchetti da 10. Ecco, monocolore, monomarca, mono tutto, soltanto la scritta della Marlboro, eccetera. E quello potrebbe essere un disincentivo in effetti. Molti giovani prendono quelle da 10? Sì, per un discorso di costi, come il tabacco, hanno spezzato la pezzatura proprio per fare... spendere meno, ma non perché costi meno, solo perché il ragazzo ha 2 euro in tasca. E la sigaretta elettronica ha portato via mercato? All'inizio sì, devo essere sincero, i primi mesi dell'anno, però molti sono ritornati. Lei fuma? No, ero un fumatore, ho smesso da 35 anni. Però consiglio molto bene ai miei clienti. L'altro grande tema di queste nuove regole sono le sigarette elettroniche. Il provvedimento che sarà votato dovrà dire quali prodotti andranno venduti in farmacia. La Commissione, per esempio, propone quelle con un tasso di nicotina superiore al milligrammo, mentre il Parlamento vorrebbe che tutte passassero nei banchi dei farmacisti. Caslini Flavio. Innanzitutto come va il commercio? Maluccio, decisamente, molto scarso sia la clientela che le vendite. Come mai, secondo lei? Un po' tutte le voci che vengono messe in giro, il discorso di tassazione, il discorso che faccia male il prodotto. Pubblico giovane, medio? Abbastanza giovane. Fumatori o non fumatori? Fumatori, tutti i fumatori che cercano di ridurre il problema della combustione, diciamo, non vogliono più respirare la combustione e cercano di ridurre anche la quantità di nicotina. Lei è fumatore? Sì, ho iniziato per quello, mi hanno regalato le sigarette e poi ho aperto il negozio, ho visto che funzionava. Nel senso che è vero, la nicotina è un farmaco, è nelle sigarette, quindi teoricamente anche le sigarette dovrebbero venire in farmacia a questo punto. Poi continuano a parlare del fumo delle sigarette, ma queste sigarette non producono fumo, producono vapore. Non ha niente a che vedere col fumo e con la combustione, quindi non riesco a capire questa voglia di fare raffronti tra cose totalmente diverse. Non me la spiego. Concorrenza sfrenata? Sì. Cioè, quindi in questa zona ci sono 4 negozi nell'arco di 800 metri quadri, sono 3-4 negozi, quindi una concorrenza pazzesca e tutti che non lavorano. La discussione delle nuove regole è stata fissata in un'assemblea plenaria, come abbiamo detto, nella prima settimana di settembre, in attesa di capire come possa cambiare il messaggio che viene inviato ai più giovani, ma non solo, per ridurre il numero dei fumatori in Europa. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.